Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sentite? Oh, ok, allora, buonasera, abbiamo passato, dicevo, da un minuto alle 21. Questa è la voce di Agostino Spolore, a tenervi compagnia fino alle 22.30 con il mio consueto compagno di viaggio, Maurizio. Ciao, come stai? Stai bene? Stai bene? Tutto a posto? Maurizio, ci sei? Ah, sì, no, stavo sistemando le cuffie. Sì, sì, sto tutto a posto. Ho capito che sei circondato da belle donne. Appunto, questo è una cosa positiva, molto positiva. Ho capito che ci sono le belle donne, ma insomma, dai, ci siamo anche noi. Allora, buonasera, dicevo, da Blu Radio Veneto, questa è la vostra emittente in questo momento preferita. Siamo nelle frequenze di 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Vi ricordo il nostro sito www.bluradioveneto.it e le nostre pagine di Facebook normale, cioè Blu Radio Veneto. L'altro invece è Blu Radio Veneto Rock Wave, che è dedicato interamente alla musica rock, gestita, come sapete, dal nostro direttore artistico, cioè Alberto Prisco. Invece, per quanto riguarda i nostri numeri telefonici in studio, è lo 049 875 6423. Se invece volete mandare degli sms, vi ricordo il nostro numero di sms, 346 23 20 033. Questa sera voglio vedere veramente tanti sms per salutare una cantautrice che ci arriva da Bologna, ci viene più o meno, insomma, ci viene a presentare in anteprima assoluta il suo disco che si intitola Ciò che non posso avere. Lei si chiama Barbara Gobbi, benvenuta. Grazie, ciao. Ciao, come stai? Fatto un buon viaggio? Bene, sì, abbiamo fatto un buon viaggio, un po' di traffico, però tutto a posto. Tutto a posto, sì. E inoltre, come dire, special guest, no, non si può dire, come ospite d'onore, c'è una chitarrista eccezionale che sono veramente felice di conoscere anche di persone, e si chiama Alessia Ippoliti. Ciao Alessia. Ciao, grazie per l'eccezionale, un po' troppo. Beh, insomma, permettimi di dire una cosa, posso, vero? Prego. Una che suona con Massimo Ranieri, insomma. Oddio, grazie. Scusate la voce, colpa del raffreddore. Vabbè, allora, ciao anche a te Alessia. Grazie, allora, ciao. Barbara. Ciao, di ciao. Nuovo, iniziamo. Ciao. Che ci racconti di bello? Chi è Barbara Gobbi innanzitutto? Allora, io sono una cantautrice, come hai detto tu, di Bologna. Insomma, in realtà tra Modena e Bologna sono ubicata. E niente, sono venuta qua a presentare il mio primo disco. Che esce domani, casualmente esce domani, e niente, vi ringrazio prima di tutto dell'ospitalità e insomma di quello che fate a livello di musica emergente, perché ho visto che insomma spesso ci sono ospiti in questa trasmissione che appunto vengono a presentare i loro lavori. Esattamente, cosa vuol dire scrivere canzoni aiuta a fare ordine in testa, Barbara? Visto che l'hai detto te. Sì, l'hai detto io. Sì, cosa significa? Significa che quando mi capita qualcosa o vedo un qualcosa capitare, non necessariamente a me, inizio a rifletterci, perché io sono una persona che pensa molto, e faccio un po' di ordine scrivendo appunto dei testi. Mi è sempre venuto spontaneo e lo faccio da quando ero piccola. Questo è il motivo dell'ordine in testa da fare, insomma, devi scrivere i testi. Cioè, sì, poi prendi i momenti, gli istanti, le immagini, le sensazioni, le metti giù. Sì, le metto giù, poi rileggo, ricanto e dico, ah, è successo questo. Ecco. Ecco, quello è il concetto. Quindi il progetto del disco nasce anche da questo, praticamente. Sì, nasce da questa esigenza di comunque scrivere, tramutare quello che sento io in prima persona, ripeto, oppure quello che vedo intorno a me in emozioni tangibili musicalmente. Ecco, esattamente. È una cosa spontanea, non è che un giorno ho detto adesso io scrivo una canzone e la musico, chissà cosa ne uscirà. No, è una cosa spontanea. Agostino, possiamo dire che il denominatore comune di questo disco è il rock? Sì, senza un assolutamente rock, ma il rock è quello bello, Il rock serve da vigore, da sensazioni. Ah sì, eh? Certo, ci sono anche le balle, le ballate ci sono, per carità. Però è il rock predominante in nei dieci momenti di questo disco. Sì, perché secondo me anche scrivere è comunque uno sfogo. Il rock comunque a livello di forma musicale, insomma, anche quando sei su un palco, quando suoni, ti sfoga. Sì, rock vuol dire trasporto, cioè sensazione, e dai sensazione anche agli altri che ti sentono, chiaramente. Beh, spero. Io mi diverto. Poi. Quello è importante, poi. Allora, leggevo qui che la passione per la scrittura e per la musica la guidano fin da giovanissima, dice un'intervista. Sei proprio partita da quando eri piccolina con la musica. Sì, per caso c'è l'aneddoto che mi regalarono una chitarra a giocattolo, io iniziai a strimpellarci sopra e dissi voglio andare a lezione di chitarra, insomma, e quindi dopo da lì ho iniziato. È nato tutto abbastanza spontaneamente, dal gioco, ecco. Ma hai avuto subito la testa nel rock o eri nata con un'altra musica? Oppure subito ti è piaciuto come tipo, insomma, di musica rock? Ma sì, mi è piaciuto subito. Ovviamente io ascolto tanti generi, ecco. Certo. Sicuramente quello che ho scritto ho sempre avuto la spontaneità di metterlo in un arrangiamento di questo tipo. Poi questo è dipeso anche molto dai musicisti che mi hanno affiancato negli anni, che sono cambiati parecchie volte, insomma. Che è la formazione, ce l'hai una formazione base? Questa è una bellissima domanda che potrebbe prendere all'incirca tutta la trasmissione. Sure. No, vabbè, a parte gli scherzi, ovviamente i lavori sono in corso, quindi adesso è uscito il disco, stiamo lavorando allo spettacolo live e sì, stiamo tentando di mettere insieme una band il più salda possibile. Ovviamente suonando magari con persone impegnate musicalmente si cerca anche di giostrarsi e di, insomma, diciamo che il mio è un progetto principalmente per ora solista. Poi ovviamente ho dei validi musicisti che mi accompagnano a seconda di quello che propongo e di dove devo andare. E Alessia ha suonato nel disco, vero? Sì, molte delle chitarre sono state fatte da me. Sì. Registrate e alcuni lavorini insieme, diciamo che ci siamo divertite a rivedere e arrangiare alcune cose. Ma la fortuna secondo me di questo disco è che regge benissimo così com'è, anche fatto semplicemente chitarra e voce, proprio la natura umana di questi brani, a prescindere dal rock, pop, soul, quello che sia, proprio la potenza e l'energia che ha un brano scritto da lei, chitarra e voce. Poi ben venga se dietro c'è una band, però t'ho fatto arrossire. L'ho pagata. per no, è vero, è quello che ho sempre pensato, cioè nel senso ha una capacità di entrare in contatto subito con chi l'ascolta, a prescindere dal fatto che ci siano quattro chitarre, una o semplicemente un riff cantato. Sì, non servono quattro chitarre, ma è la forza che dà lei praticamente. Esatto. Chitarre sì ci sono, servono soprattutto quelle elettriche, però se ci sono anche le acustiche, ma anche le acustiche con la voce grintosa, come fosse una chitarra elettrica praticamente. Dai, sì. Ecco, facciamo così. Ok. Vogliamo ascoltare subito. Certamente. Qualcosa dal disco. Cosa ci hai scelto, Barbara? Cosa vi ho scelto? Ho scelto dal disco, ascoltare dal disco, ho scelto Le tue maschere. Perfetto. No, perché dal disco non capivo se, perché ho voglia di suonare, non capivo se... Vuoi suonare subito? No, non capivo se dal disco, nel senso acustico, no, dal disco... No, proprio dall'LP dal che... Dal disco sentiamo Le tue maschere. Esattamente, una volta si chiamava LP, adesso non esiste più, o esiste ancora per i fortunati, però dal CD nuovo. Okay. Allora, da ciò che non posso avere, Barbara Gobbi con Le tue maschere. Sono Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sì, possiamo dire una cosa che tu mi hai detto? Non so se si può fare, si può dire? Quello delle maschere, che per motivi, cioè, si chiamava Maschere il pezzo, poi è stato messo come due maschere perché un altro gruppo l'aveva reinciso. No, no, non un altro gruppo, precisamente un'altra persona. Ah, un'altra persona. Gobbi. Ah, nome Gobbi, perfetto. Che è tutta, cioè, è tutta un'altra cosa. È una cosa incredibile, può capitare. Sì, un Gobbi aveva già, inciso questo inciso pezzo. Un brano che si chiamava Maschere. Quindi la SIAE mi ha gentilmente chiesto di cambiare invitato il titolo. A cambiare il titolo. Esatto. Perfetto. Adesso fortuna. Sì, ho riso una fortuna. Due giorni. In ogni caso adesso parliamo della costruzione del pezzo, dell'arrangiamento. E secondo me, come abbiamo scritto nella recensione, può essere un singolo potenziale. C'è un altro singolo, però anche questo può essere un altro singolo perché è molto accattivante l'arrangiamento. Hai voluto te creare questo singolo, questo arrangiamento così che prende immediatamente. Sì, diciamo che è venuto, ripeto, le cose vengono abbastanza spontanee, nel senso che io non curo del tutto gli arrangiamenti, anzi mi faccio molto... Però l'idea di partenza ce l'hai. Certo, certo. Su questo pezzo, per esempio, le chitarre, in questo caso gli arpeggi di chitarra elettrica, danno un ambient molto diverso, per esempio, da un chitarra e voce. Certo, certo. E quest'ambient ci è venuto bene. E l'Alessia che funziona in questo pezzo? Alessia? Mm. Alessia ha, diciamo... Si è prestata sia per le registrazioni, sia attenta comunque... a quello che dici. No, beh, sicuramente i riff di chitarra elettrica sono stati fatti da lei e ha contribuito ovviamente all'arrangiamento del brano, dandogli un'impronta non indifferente, ecco. Insomma, se gira, sì, certo, dice... certo. Ma è girato sicuramente, ha girato assolutamente questo pezzo, perché ripeto, secondo me può essere un singolo numero due, se mi è consentito l'espressione. Lo terremo in considerazione. Ecco, tienilo in considerazione. Io l'ho sentito così. E chiaramente voi avete scelto un altro singolo di certezza, la traccia numero 3. Sì. Però non può essere anche scartata l'ipotesi che poi questo può diventare un'altra facciata del disco, certo, praticamente. Sicuramente. E dal vivo come lo fate questo pezzo qua? Sempre con questo andamento un po' più rockettaro. No, beh, no, mantiene molto. Sì, siamo abbastanza fedeli. Mood. Sì. Sì, sì, rimane, cioè non morbido, perché nessun brano del ma disco non è morbido, così morbido, è un morbido un accelerato, possiamo dire così. Ma in realtà lavorare su quei brani viene tutto spontaneo, cioè, nel senso, è molto molto naturale, non c'è mai stato un qualcosa di cervellotico per trovare la via di uscita su un qualcosa, ma che andava tutto, quasi, non dico di getto, ma quasi, no, tranne un paio di cose nel quale ci siamo messi un pochino a, non dico a tavolino, ma comunque a dire perché non proviamo a fare in questo modo piuttosto che nell'altro. Certo, in realtà tutto certo. Il resto è venuto molto, molto naturale. Certo, certo. Ci abbiamo subito un saluto che vi giunge da Napoli. Wow. Immacolata dice che sta ascoltando e che sei molto brava. Ciao, mi è piaciuta già la canzone, insomma. Ok, ciao Immacolata, mi raccomando, stai bene, sì, aspetta, non gli venga qualcosa. Buon proprio adesso. No, nel senso, buon proseguimento all'ascolto del programma, diciamo, in quel senso lì. Allora, cosa ci fai ascoltare adesso? Pensavo di farvi ascoltare. Cioè, perché noi ci vogliamo già sentire qualcosa dal vivo, per quello te lo dicevo. Esatto. Immaginavo che questo giro ci fai ascoltare, non essendo io dall'altra parte della regia, immaginavo di dover suonare. Pensavo a un pezzo che punta sulla positività, che si intitola Il mio bell'attimo. Punta sulla positività. Bene. Se ci siamo, ci siamo. Posso? Ok. Eccoci qua. Bell'attimo risplende, sarà improbabile scalfirlo, è posto a un passo dalle note, sarà piacevole amalgamarli. Vorrei poter gridare al sole, sua e la mia netta vittoria, contro notti alquanto lunghe e scure, ho ancora in tasca il mio cerino spento. E ho avuto accesso al mio bell'attimo, sposandomi a queste poche frasi. Grinta c'è, subito, yeah. Hai visto? Sono già gli applausi subito, hai visto? Applausi, grazie. Prego, allora, io ne approfitto prima di dimenticarmi, che poi non vorrei mai, ma so che c'è comunque una persona che ti sta ascoltando, che si chiama Silvia, mi aveva garantito che ci stava ascoltando, quindi noi la, quindi noi la salutiamo chiaramente. Ciao Silvia, se sei d'ascolto magari. Ciao. Ciao Silvia. Ciao ragazzi, ciao, oh. Ciao, ciao Barbara. Ciao Silvia. Uccello, che sorpresa. Amica dei pesci. Amica dei pesci, veramente. Te l'ho fatta la sorpresa, vedi? Sì, ma hai fatto una sorpresona. Visto, certo. Come stai? Bene, te? Assolutamente bene. Volete un caffè? Com'è lì, visto che a me tocca giovedì prossimo? È un ambiente molto free e molto rilassato. Si sta bene, io te lo consiglio. L'ho pagata, eh. L'ho pagata, Silvia, l'ho pagata. Bene, bene. Ma c'è anche Alessia, vero? C'è anche no, no, c'è la sua controfigura. È un po' raffreddata, gli hanno fatto una fattura o qualcosa. Però sì, c'è anche Alessia. Ciao. Bene. Ciao, Selma. Selma o Louise. Esatto. Posso rubare 30 secondi alla tua trasmissione, Barbara? Chi è questa? Direi di sì. Chi è questa Thelma? Chi è questa Louise? Allora, diciamo chi non è, lo diremo mai. Non si può, c'è il segreto professionale sulla Thelma e sulla Louise. Comunque è un progetto. Non lo sappiamo neanche noi. È un progetto acustico molto, molto carino, del quale fa parte Silvia e del quale fa parte Alessia, insomma. Certo. Allora, Silvia, hai ascoltato la canzone di Barbara, ti piace? Cosa ne pensi sì, del suo disco? Vabbè, ma io sono di parte. Beh, sì. Vabbè, insomma, cerca di essere obiettiva. No, a me piace tantissimo il suo modo di scrivere innanzitutto, quindi quello in primis. E poi amo tantissimo proprio il tono di voce, questa voce molto, molto mediosa, sono cose che lei già sa, però ci tengo a sottolinearle. Però posso chiederle una cosa adesso? Adesso? Che magari la farà più tardi, io non so se hai intenzione di farlo live questo brano o comunque di metterlo dal disco, però volevo che mi dedicasse uno dei brani del disco, che è il brano numero 4, che è Afa Circonda, che a me piace davvero tantissimo. Ok, quindi, Silvia. Se sei in programma, esatto, una dedica. Ma ce ne mettiamo, Silvia. Per te questo è altro. Ce ne sono 10, ne abbiamo in programma. No, no, va bene, ti farò Afa Circonda e te la dedicherò. Ok, grazie. Di niente. Va bene, Silvia, ti ringrazio della disponibilità. Abbiamo fatto questa sorpresa, è stata un'idea mia. Immaginavo. Volevo grazie a te, guarda, a questo punto a presto. E allora noi ci vediamo la settimana prossima. Direi proprio di sì. Mi raccomando. Sì. Certo. Fai la brava, eh. Arrivo. Salutami Tommaso. Grazie, sarà fatto. Buona serata. Ciao Silvia. Ciao. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, grazie Silvia, ciao. Contenta? Sì, non me l'aspettavo. No, proprio. Siccome so che siete amici, sì, in amicizia insomma con lei e con anche il resto, qualche altro della band, anche se non sbaglio. Se non sbaglio. Allora, bella sorpresa. Facciamo un salutone così in velocità. Comunque ciao Barbara che ci sta, cioè scusa, ciao Silvia che ci sta ascoltando. Dicevo, devo andare. No. Le faremo sapere. Le faremo sapere. Ritorniamo a questo pezzo che tu hai fatto acustico qualche momento fa. E il mio bell'attimo è una pop song, secondo me. Una pop song molto fruibile, non movimentatissima, perché non è da essere così. Una pop song molto accattivante. E l'hai suonata molto bene qua, con una certa grinta però. Hai tirato la fuori la grinta nella parte centrale e l'hai ripetuta la grinta anche nella parte finale del pezzo. Perché deve essere così. Sì. Cioè, non dico un Dr. Jack e un Mr. Hyde, assolutamente no, però una facciata, una parte melodica, lenta, e poi la grinta che viene fuori. E la costruzione del pezzo deve essere così, una pop-song contrastata, possiamo dire questo, sì, tra virgolette, dai, se mi è consentito. No, ti è consentito assolutamente, perché per me sono tutti spunti per capire cosa cavolo l'idea faccio. Dove nasce di questo pezzo, Barbara? L'idea nasce dal fatto che ogni tanto capita, penso a tutti, di provare un qualcosa di particolare, di avere un momento in cui sei particolarmente felice e dici è un bell'attimo questo, no? Magari anche se sei fuori con dei tuoi amici, qualsiasi cosa. Io ero con una mia amica e niente, lei mi ha detto: ah cavolo, dai, questo disco, questi pezzi, questo è il tuo bell'attimo, no? Certo, detto, certo. Allora ci ho scritto un brano. Ho scritto un pezzo, chiaramente, sì. E poi l'hai praticamente, avete arrangiato voi della band, cioè chi ha deciso di arrangiarlo in questo momento, in modo abbastanza pop, decisamente pop. Il pop sta bene nel rock, assolutamente. Certo, io volevo ricordare se era possibile che qui abbiamo un grosso pezzo dell'arrangiamento che quindi è stato l'Alessia. Fatto. Però è giusto nominare anche tutti gli altri, certo, musicisti che hanno lavorato a questo disco, che sono... Te ricordi, sì? Certo. Benissimo. Che sono Paolo Nasi, al basso, e Daniele Cavalca alla batteria, che adesso è all'estero, era talmente bravo che me l'hanno rubato. Rubato. E soprattutto Gabriele Rustichelli, che è il factotum con te del pezzo, esatto, del disco, ha dato una mano notevolissima. Assolutamente, è colui che insomma ha fatto da direzione artistica comunque a tutto il lavoro che si è svolto in questi ultimi mesi, e senza il quale comunque questo disco non avrebbe avuto la luce. Certo, ecco. Certo, ha fatto un lavoro assolutamente notevole. Sì, assolutamente. Bene. Quindi volevo ringraziare tutti quanti. Alessia è qua, insomma, l'ho ringraziata un sacco di volte. Basta. troppo. Però insomma, basta. Insomma. Sì, beh, è importante, il gruppo è importante in un disco. Assolutamente, per questo disco ci sono state veramente le mani di tutti. fondamentale. A proposito di mani, salutiamo anche la Chiara che sta facendo le fotografie, che fa parte del gruppo, e il nostro direttore artistico che arriverà fra un'oretta scarsa. Sì, anche meno. Anche meno, che è Alberto Prisco. Allora, ricordate che state ascoltando Barbara Gobbi, che ci sta presentando il suo disco che si intitola Ciò che non posso avere, il suo disco che esce domani. Questa è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino con Maurizio. Stiamo cercando di capire un po' di più di questa cantautrice bolognese. Siamo onorati, Agostino, esce domani, noi abbiamo un'anteprima, però è una cosa infatti, bellissima. Io l'ho scoperto per caso, se devo essere sincero. Un giorno che ero lì su Facebook e lei ho messo il mio nuovo sito, diciamo come stanno esatto, le cose. Il potere della tecnologia. Io ti ho detto bello il sito, poi sono andato a vederlo bene bene, c'era scritto appunto esce il 27, allora gli ho chiesto perché non vieni da noi. Guarda, io cosa ti ho detto? Lasciami pensare, sì, ci ho già pensato. Esatto, esatto, per me insomma è una buona opportunità insomma di dire un qualcosa in più rispetto... A noi fa piacere questa esclusiva comunque, ci fa veramente onore sapere che questa cantante che sta per uscire col disco sia qui per la prima esibizione, tra virgolette, insomma, del suo disco. Barbara, volevo chiederti una cosa. Che effetto ti fa essere stata premiata come miglior cantautore nel 2010 da Mogol? Che effetto mi fa? Cioè, stiamo parlando ad alti livelli. Mogol Battisti, insomma, come dire... Sì, sì, è stata una cosa un po' particolare, perché non te lo immagini quasi mai fisicamente, Mogol, no? Un po'... No, sto scherzando. Sì, certo. No, nel senso che, insomma, trovarselo davanti... E avere un premio da lui, io mi ricordo la scena, nel senso che vabbè, prima di tutto si parla del Tour Music Fest, che è un concorso a livello nazionale, e io ho vinto appunto il premio cantautrice dell'anno dopo Best Songwriter of the Year. È stata un'esperienza bella perché ho suonato all'Atlantico di Roma, che comunque è un bel palco, ho suonato con dei musicisti adesso di latte e miele, non vorrei sbagliare, dire sciocchezze, però è stata una bella esperienza. Mi ricordo che comunque quando ho vinto questo premio è arrivato, secondo me era molto stanco sì. Perché era mezzanotte e mezza, l'una, no? Allora io l'ho visto e ho detto, ma già che ci sono, insomma, io ho detto, ma posso baciarla? E lui mi ha guardato, ha detto sì sì. allora c'è questo bacio accademico tra me e Mogol, in cui lui secondo me l'ho spaventato, non lo so, forse no, però è stato carino, insomma, comunque è una soddisfazione, a parte gli scherzi, certo. Lui è un grande, hai suonato con i Latte e Miele, hai detto. Ah, una band? Sì, si chiamava, una band progressive degli anni 70, si chiamava Latte Miele. Ah no, allora non erano quelli. No, secondo me, no, erano musicisti che lavoravano... Può darsi che siano gli stessi... I Latte Miele, non so se te li ricordi, hanno fatto una cover italiana e si intitola Sto volando con te, che era la cover degli Exile, Kiss You All Over. Non so se te li ricordi. Un po' di anni fa. Tanti anni fa. Purtroppo che la mia ignoranza. Non sono gli stessi gruppi. Io ricordo i Latte Miele come gruppo progressive degli anni 70. Sì. Quelli sì. Io ho due o tre dischi molto interessanti. Sì. No, loro erano proprio musicisti assoldati. Penso fossero per un discorso di radio affiliati. Sì, sì, ho capito. E comunque hanno arrangiato tutti i brani dei partecipanti nel giro di tipo un'ora e mezza. Sono stati bravissimi. Sì, cioè io ero veramente lì in estasi. Pazzesca. Tu fai questo, va bene. Ciao, fai. Cioè è bellissimo, bellissimo, assolutamente. Immagino. Penso sia una grande soddisfazione, specialmente per un emergente. Assolutamente sì, quello è stato proprio un bel... C'è un discreto, insomma bisogna impegnarsi molto, ma per il fatto che le selezioni una volta sono a Firenze, l'altra a Roma, ti sposti, fai, però se hai tempo e voglia sono esperienze in cui... conosci anche molti musicisti, molte certo. persone e con i quali confrontarsi, è una cosa molto bella. Adesso ci confrontiamo con la tua musica, però. Ah. Sì, sì, assolutamente. Noi vogliamo sentirti suonare. Ancora? Sì, certo. Cosa ci fai ascoltare adesso? Adesso potrei... Senza capotasto, metti no, capotasto. Se la voce regge. No, sto scherzando. No, mi viene in mente Silvia e... Vuoi fare quella canzone? Sì, mia? Non era in programma, ma qui nulla è in programma, quindi... gliela facciamo. Okay. Mi immagino da casa che fa sì. Sì. Ok. Sei pronta? Sì. Aspetta. Ok. Thank you. posso far finta di non sapere che corro da sempre, lasciando cadere lungo la strada i particolari di ciò che è passato. Posso dar luogo a fraintendimenti, il mio atteggiamento inganna anche me, ma nel complesso so che non mi sbaglio e questo mi rende tranquilla anche se portano luce, così riconosco ciò che calpesto, ma spesso gocce mi invadono il viso di pianti o di parti di nuvole. Mi pare giusto. Stavo andando in distanza. No, sì, ma mi pare giusto la finale della Jam Session. È così. È proprio così. Stavo venendoti a prendere. Sembrava che stessi cadendo. No, guarda. Perché rimbalzo indietro. È proprio la tua musica rock, eh? Cioè sei sì. di una vitalità enorme, ti dona veramente fare rock, eh? Oh, di una vitalità enorme, non me l'aveva mai detto nessuno. Vedete suonare con questa grinta è veramente piacevolissimo, Barbara, complimenti veramente. Grazie. Questo pezzo nel disco ha un inizio pseudoacustico e può, secondo quello che ho scritto io, può portare alla conclusione di un brano decisamente lento ed avvolgente, ma non è così. C'è un muro di chitarre quasi punk alla fine. Alessia, dimmi qualcosa, visto che ho colpa citato sua, il punk. Oddio, qua non è solo colpa mia. Diciamo che ha collaborato molto anche Gabriele Rustichelli, ecco, che ha dato una mano notevole. Esatto, abbiamo fatto un bel muro dietro di della Z Factory di Carpi, tra l'altro, esatto. Perché l'etichetta è la Z Factory di Carpi, molto importante dirlo, dato che prima non l'ho detto, per me. L'abbiamo detto adesso. Sì, poi Rasti è un amico, dico Gabriele Rustichelli, però in realtà l'etichetta che pubblica il disco è la Z Factory, scusa, sì. Torno. No, parliamo lui di ha fatto molto del lavoro, secondo me. Un muro di chitarre, praticamente. Sì, in tutto, e naturalmente nella fase anche di registrazione, di fissaggio di tutto quanto, è stato un grande in questo. Quindi. Visto che questo pezzo l'hai scritto quando era caldo, praticamente, come hai scritto nella presentazione, molto bella, perché la Barbara, nella presentazione che abbiamo noi, ha praticamente descritto pezzo per pezzo. Hai scritto, questo è un pezzo che ho scritto, era molto caldo, è così. Sì, e questo pezzo qui appunto l'ho scritto, infatti non c'entra nulla il titolo, ma io lo faccio spesso alla fine perché mi importa relativamente di mettere un titolo inerente al pezzo, si chiama Afa Circonda perché un po' come adesso, cioè, adesso suonare, sì, esattamente. C'è caldo e quindi l'ho chiamata così, in realtà il brano si sofferma a pensare che i nostri corpi sono troppo fragili, no? Mi hanno preso abbastanza in giro per la frase "ho paura di un mal di gola", no? Cosa sta dicendo questa? In realtà era un po' una cosa ironica per il discorso che i cantanti sono sempre paranoici a livello della voce, e quando ti viene il mal di gola e canti sembra che ti abbiano staccato il braccio, foulard, eccetera eccetera. Esatto, questo era un po' il concetto. Il concetto era questo. Benissimo. Ok. Allora, dimmi. A che punto siamo? Sì, siamo alle 21:39, 21:40. Abbiamo ancora tanto tempo. Io voglio ricordare innanzitutto i numeri telefonici, se qualcuno ci vuole mandare qualche sms. Allora, il 346 23 20 033 per, come dire, parlare un po', se volete fare qualche domanda, dare qualche informazione o chiedere qualcosa a Barbara, ve lo ricordo, ve lo ripeto, 346 23 20 033. Se invece volete raggiungerci qui in studio, lo 049 875 6423. Questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo momento. Sono le 21:39, quasi 40 di questo giovedì 26 maggio 2011, siamo in diretta, siamo qui. Sì, anche la chitarra cadeva, era in diretta anche quella. Ma infatti, assolutamente. Ma è bello così. Anche sul palco. È rock anche questo. Sì. Sì, a fine show rompe sempre una chitarra. No, in realtà. Non è vero. Le tengo tutte dai 7 anni. Quindi. Io ho visto qualche video su YouTube tuo e mi sembravi una persona molto calma, molto tranquilla. Sì, dipende cosa hai visto. No, beh, vabbè, sì, cioè, no, io non spacco nulla assolutamente, anche perché la mia presenza sul palco è molto vincolata anche dal fatto che io suono di continuo, quindi se suono di continuo devo stare davanti al microfono, se devo stare davanti al microfono e suonare insieme non è che posso andare all'estremità del palco, camminare, scuotere la testa, divincolare, cioè no. E poi non ho il fisico, quindi è meglio che io rimanga lì, insomma. Barbara, ricordiamo i tuoi, come dire, link, i tuoi indirizzi, quello che se qualcuno vuole contattarti, insomma, se vuole chiedere informazioni tramite internet o scriverti, insomma. Sì, allora è stato aperto da qualche giorno il sito ufficiale, che bellissimo, è www.barbaragobbi.it, e lì ci sono tutte le informazioni, le news, le date dei concerti, qualsiasi cosa che musicalmente mi riguardi. Poi ovviamente, essendo i social network abbastanza presenti, insomma, ho anche la mia pagina ovviamente Facebook da cantante, ecco, e niente, e MySpace, dove ci sono caricati delle anteprime dei brani, che è www.myspace.com/barbaragobbi. Poi c'è anche, basta, poi dico l'ultimo, poi c'è anche SoundCloud, che lì, vabbè, si cerca sempre io, quindi Barbara Gobbi, e dove da domani, massimo dopodomani, verranno caricati in streaming i brani, perché io ho piacere che vengano ascoltati comunque, per rendersi conto di che tipologia di album è, ecco. E se uno vuole, fra qualche giorno, fra qualche settimana, avere il disco fisicamente, come deve fare, secondo te? Secondo me a venire a sentire nei concerti, anche poi richiedere l'etichetta. Certo, no, noi abbiamo come etichetta lo Z Factory alla distribuzione Venus. Sì, quindi e distribuzione Believe. Grossa. Sì. Sì, comunque siamo presenti nei negozi, ovviamente la musica emergente. Diciamo che insomma, se tutte le volte che esce un disco emergente, Ricordi o le Fnac lo dovessero mettere fuori, probabilmente sarebbero sommersi. Ne mettono fuori pochissimi, insomma, se volete cercare il disco basta andare a chiederlo, e se non c'è ordinarlo comunque, certo, perché c'è da catalogo. Poi online verrà comunque distribuito tramite le piattaforme digitali, iTunes e tutte queste cose. Il disco è trovabile, insomma. Poi ovviamente ai miei concerti. Chiaramente, quello è presente sempre. Esatto, sì, quello sì. Poi se volete ve lo spedisco, insomma, fate un po' voi, tanto sono contattabile dal sito. Benissimo. C'è anche il tuo numero di telefono, se qualcuno ti vuole invitare a cena? No, no, quello no. Il numero di telefono non c'è. E poi, vabbè, come ufficio stampa partirà, vedi, il flash. Partirà l'altoparlante, non parlerà sì, ho capito. Ok. l'altoparlante che insomma si occuperà della, della gestione insomma di recensioni, di notizie. Se cose posso dire una cosa sull'altoparlante, è una gran bella etichetta, lavora spessissimo con noi. Perfetto, perfetto, veramente... sono contenta, io devo iniziare a lavorarci adesso come ovviamente ufficio stampa, nel senso che loro fanno tante cose. Lo faccio pubblicamente perché guarda, veramente è una cosa splendida, un'etichetta splendida, veramente lavora benissimo. Perfetto, dal punto sono di contenta vista, con noi almeno, con la nostra emittente è eccezionale. Vuoi ascoltare qualcosa dal disco o vuoi ascoltare qualcosa dalla tua chitarra? Facciamo qualcosa dal disco, cosa dici Barbara? Va bene, facciamo Certezze Cemento, che è il singolo. È il singolo che uscirà a brevissimo accompagnato da un video altrettanto strange. Poi ne parliamo del video, ok? Sì. Sì, se vuoi parlarne. Sì. Beh, sì, ne parliamo, qualcosina dai. Sì. Ok. Cerco di prendere atto di ciò che non sei. Cerco di prendere atto di ciò che non vuoi. Cerco di prendermi gioco di ciò che sento. Da parte come chiedi tu, ma quel che chiedi esaudito esaurisce poi me. Respiro cemento, percorro certezze di aria e tu cammini di fianco. Radio Sera. Blu Radio Sera. fascia oraria chiamata Blu Radio Sera, dalle 21 alle 22.30 ogni sera della settimana. C'è questa fascia dove specialmente il giovedì ultimamente facciamo sempre ascoltare qualcosa di acustico dal vivo. Questa sera abbiamo Barbara Gobbi con il suo nuovo disco che, come abbiamo già detto ampiamente ma lo ripetiamo, esce domani, si intitola Ciò che non posso avere. Lei è una splendida interprete, una splendida cantautrice, oltretutto è anche una bella donna, te lo posso dire. Grazie. Tanto non ci sente nessuno. E un saluto all'amica dei pesci. Cos'è? Chi è l'amica dei pesci qui? Ma sì, è sempre Silvia che si diverte a mandare messaggi, perché siamo entrambe del segno dei pesci e ci troviamo in molte psicosi dei pesci probabilmente. E quindi ci chiamiamo amica dei pesci. Allora, non era una frase per distoglierti dal video, okay. ce lo vuoi raccontarcelo? Il video sì, di questa canzone Certezze Cemento. Ma il video, prima di tutto c'è la regia di Roberto Zampa, che è un personaggio particolare che fa teatro, quindi noi ci siamo soffermati più che altro sull'idea da dare a questo video. Diciamo che è una cosa che sfiora il fantastico, nel senso che sono io che come posso dire, sono sdoppiata tra una parte che è attiva e una parte che, l'attiva è, non so, cerco di prendere atto, di fare, di questo, e la parte mia passiva che è quella che insomma parla di quello che sento e di quello che mi butta a terra, insomma. E c'è questo gioco tragicomico con azioni un po' fuori dall'ordinario, ecco, insomma. Poi la Monty Python è così? Circa, no, un po' lontanamente. Guarda, non lo so, è venuto anche lì tutto molto spontaneo a livello di sceneggiatura, sì, di idea, insomma, sì, come sì, si è svolta. Di tutto quanto, insomma. Poi è stato faticoso, non è che certo, qua certo. Tutto spontaneo, no, tutto, no, no. È venuto così, no, cioè, tutto qua si è lavorato in modo anche serrato, perché comunque quando esce un singolo, esce un video, ci sono delle tempistiche, delle cose da fare. Diciamo che abbiamo fatto del nostro meglio puntando su un'idea che tanto non si capirà, ma a noi non importa perché la capiamo noi, quindi siamo contenti così. Dove l'avete registrato, fatto? L'abbiamo registrato in un magazzino che abbiamo allestito, diciamo, in modo minimale. Sì, viva la semplicità proprio, certo. Nel senso, questo era quello che volevamo, addirittura con oggetti di casa mia portati lì. Sì, è stato veramente, l'abbiamo girato tutto in un giorno, tra l'altro, e ci siamo trovati a parlarne tantissimo e sì, cosa dici, porto la piastra, cosa dici, porto non lo so, il divano lo porto io, insomma. Guarda, comunque è stata una bellissima esperienza come prima volta. È il primo di una lunga serie o il primo e basta? Ma non lo so. Visto che ti sei divertita. No, io mi sono divertita sicuramente. Spero che sia il primo di una lunga serie, ovviamente. Beh, insomma, danno un'immagine anche bella dell'artista questi video. Sì, diciamo che io non ho puntato non ho puntato tanto sull'immagine, ma nel senso che tu vedi questi video con queste donne da dire a lei questa truccata fatto, no, io addirittura suono in pigiama proprio per sfatare questa cosa dell'immagine, insomma, abbiamo fatto cose un po' strane, ecco, insomma. Beh, io ho visto un'anteprima, un piccolo sketch, diciamo, e secondo me invece vale tantissimo. Descritto così sembra una cosa veramente fatta a casa in pantofole. Grazie. con una fotocamerina, così invece è fatto molto molto bene, no, proprio l'idea che c'è dietro, certo. È molto originale, molto carina, molto d'impatto. Secondo me uscirà una gran bella cosa. Adesso non ho visto proprio l'ultima versione, ho visto un... Cioè, si poteva dire? No, assolutamente sì. No, ma no, lei fa bene perché insomma corregge un attimo il tiro. In realtà è una cosa professionale fatta da persone professioniste. Il mio discorso dello spontaneo, eccetera, è di ricreare un ambiente un po' casalingo in un magazzino, una cosa un po' strana. Vi parlavo poi della mia immagine, che è un po'. Ma sì, è una visione un po' autoironica, secondo me, dell'artista, che poi ci sta anche, cioè, piuttosto che essere sempre. Ne parlavamo prima in macchina, piuttosto che sempre questa immagine di sì, vorrei, ma non mi piace, sì, tutti mi chiedono. Invece avere anche un'immagine un po' più reale, più autoironica, più reale appunto su quello che succede. Credo sia la cosa più bella, sai, essere sempre reali. Sì, quel pigiama rosa porco che ho addosso, è veramente bellissimo. E in ogni caso... lo auguro. Dal punto di vista... da vedere, secondo me... Saremo in prima fila. Grazie. Dal punto di vista professionale il pezzo è fatto da professionale, non c'è niente da dire, è un pezzo semplice, non è che sia semplice, è facile, è accattivante ed è giusto che sia così. È un singolo, però è fatto da persone professioniste, le chitarre sia tua, partecipi anche te, partecipa la Alessia, partecipa Rustichelli, cioè, quindi una assolutamente cosa fatta sì. In un certa maniera, insomma. Questo è stato proprio creato a step, nel senso che prima ci ho lavorato io, perché tutti i brani nascono comunque chitarre e voce, nascono da te. In questo caso abbiamo fatto un lavoro prima con Alessia sulle chitarre, alcune parti di basso c'erano già, poi Rusty, sì. Noi lo chiamiamo così. Sì, Rusty, quindi il produttore. Esatto, il produttore poi ci ha nuovamente messo le mani e l'ha abbellito con altre chitarre, altre, quindi avete fatto altre cose, quindi è lavoro. Proprio un lavoro di squadra. Sì, esatto, è un lavoro di squadra, perché il disco deve essere un lavoro di squadra, certo. C'è poco da fare. E soprattutto il disco di esordio è ancora più importante, secondo me. Ok. Io voglio ascoltarla dal vivo. Sentiamo qualcosa, Barbara. Anche perché mi piace vederla scatenata così. Sì. Sì, sì, sì. Sei bellissima da vedere, eh? Sì, no. Sicuramente mi depuro. Sì. Perché... beh, insomma, un po' di tensione magari ti viene, giusto? Ma sì, qua siamo abbastanza, insomma, gioviali. Amici, sì, certo, sì, certo, certo. Ma è una chiacchierata fra amici, insomma, noi cerchiamo sempre di dare questa immagine, insomma. Quando tu sei pronta, tu dimmelo che noi ti facciamo suonare dal vivo. Cosa ci fai ascoltare adesso? Vi faccio ascoltare la lieta notizia. Stasera mi sento positiva. Che è l'ultima traccia del disco, originariamente. Esatto, che è l'ultima traccia del disco. Ok, adesso facciamo il capotasto. La lieta notizia. Mi imbatto di frequente nei ricordi di un'estate accesa, intensa, che mi ha accecato la mente. In breve tempo e per stare con te, sciolta dal caldo afoso, raggiungevo la tua casa. Il sole di luglio mi aveva seccato il cervello, ma da ieri spostare l'attenzione sui tuoi comportamenti ha avuto risvolti notevoli. Per nulla preoccupata di un tuo cambio di umore, ti parlo serenamente. Non sei più il mio ideale, per me non sei abbastanza. È questa la lieta notizia. Penso di aver diritto a qualcosa di speciale. Non provo gusto a collezionare da sempre le tue incertezze. Spero tu sappia che in questi lunghi mesi troppo spesso mi hai confusa con le tue attenzioni a intermittenza. Ma da ieri spostare l'attenzione sui tuoi comportamenti ha avuto risvolti notevoli. Per nulla preoccupata di un tuo cambio di umore, ti parlo serenamente. Non sei più il mio ideale, per me non sei abbastanza. È questa la lieta notizia. Spostare l'attenzione questa la lieta notizia, è questa la lieta notizia, è questa la lieta notizia. Eccoci qua, bella, brava, con molta grinta. Questo non mi sono ribaltata. Stavolta. Non ti sei ribaltata, no. Sei rimasta perfettamente in linea. Con le dita dei piedi, però. Sì. Oh, scusa. Dunque, l'album, cioè il pezzo dal disco è una visione musicalmente contrastata, come ho scritto io, tra introspezione c'era, ma il muro di chitarre c'era ancora una volta. Sì. Come mai c'era il muro di chitarre anche alla fine del disco? È stata una scelta vostra? Ma Dio, una casualità? No, una casualità, nel senso che noi a livello di band non abbiamo ragionato partendo da una tracklist. Però le tracklist di solito vengono messe in una certa maniera volutamente. Di solito. Di solito, ecco, non è il tuo caso allora. No, in realtà non è mai. No, vabbè, in realtà al discorso della tracklist ci abbiamo poi pensato. In realtà c'è un senso, certo. Io non me lo ricordo, ma è in una mail che io ho mandato al gruppo dicendo: allora raga, io ci ho pensato 2 giorni e queste sono le motivazioni per le quali e tutti hanno detto va bene, sì, ha un senso, tutto ha un senso in questo disco. Certo, certo, indubbiamente. È stato un parto particolarmente lungo, quindi tutto assolutamente ha un senso, dal titolo ai brani, diversi brani. Esatto. Bene. Io sono convinto che Alessia, quando suona con te, non si annoia mai. No, impossibile. Sì, si finge morta. Sono logorroica. No. Anche perché lei in sala prova è una che osserva tutto. Cioè, devi stare attenta a muovere un piede, ti senti osservato. Tradotto, cioè, una cosa sono leggermente pesante. No, è piacevole lavorare in questo modo. Perché ti rende partecipe, allora ti stimola a trovare nuove strade o comunque a percorrere quelle giuste. Quindi sì, no, è bello lavorare comunque insieme a una band, anche con un progetto solista, perché comunque in sala prove, se uno deve cantare, suonare, ogni tanto interpretare, perché anche se è sera e sei stanco, certo, qualcosa ti va di darlo, a livello di non puoi sentire tutto, quindi non lo so, io sono molto democratica e dico: qualcuno ha qualcosa da dire? Certo. Io. Ecco. E lei? Oppure comunque un po' tutti. È bello questo scambio, perché io tante cose le perdo per strada proprio. Beh, ma è giusto che ci sia la democrazia, insomma. Quindi... Caspita, sì, assolutamente. Almeno perché poi ognuno si arricchisce dell'altro, insomma. Certo. Da cosa nascono le tue canzoni? Da come nascono? Proprio dalla democrazia. No, ma non parlo dal punto di vista musicale, cioè i testi, così come... I testi... Sono cose intime? Ma come ho detto prima, comunque come sto... niente, cancello l'ultima parte della frase. Come ho detto prima, i brani nascono, prima di tutto, vabbè, da qualcosa che mi colpisce. Sia che possa riguardare me, sia che possa riguardare qualcun altro, perché il primo stimolo sono le persone, sicuramente. Certo. Ma anche quando si parla di sentimenti o addirittura di amore, queste cose qui, se non ci fossero le persone, non è che io mi amo, cioè io mi amo molto, però... Quindi comunque tutto parte dalle persone e dall'osservare e dal riflettere. Sicuramente io sono una persona che probabilmente riflette anche troppo, però appunto le canzoni aiutano a fare ordine in testa e i brani nascono appunto da qualcosa che mi colpisce, che è stato fatto o che ho fatto io stessa della mia vita, insomma. Quindi tutte storie vere, insomma. Sì, diciamo che ogni tanto le condisco, nel cioè, senso, le allarghi. Sì, magari metto insieme 2 situazioni, faccio un po' di... Tanto secondo me, allora, io prima di tutto, magari è egoistico da dire o meno, però nasce da un'esigenza mia lo scrivere o cantare, non è che io penso a come farle meglio per poi arrivare alle persone. Io spero che le persone che ascoltano comunque i testi, i brani, così, in qualche modo ci si ritrovino per alcune cose. Ecco, quello potrebbe essere il vedi che già mi sono persa, nel senso, quando ti dico che io rifletto e penso e parlo, posso fingermi morta? No, assolutamente. No, va bene. Comunque sì, stavo dicendo, è tutto abbastanza spontaneo. No, no. Una cosa volevo chiederti, questo, per esempio questo pezzo, La lieta notizia, dal vivo, c'è la possibilità nella componente completistica della band di andare oltre, cioè di superare l'intonazione normale del disco per fare dei piccoli assoli nei pezzi, nel pezzo stesso, cioè di allargarlo completamente, snaturarlo nel senso positivo o no? Beh, si può fare, tutto si può fare, nel senso che però in questo caso avremo bisogno del tuo aiuto in sala prova, perché non ho capito esatto. No, voglio dire, cioè il pezzo è scritto così, sì. Nel disco si sente così, certo. Quando lo fate dal vivo c'è la possibilità di allargarlo, di veicolarlo in un altro sistema, cioè quasi di trasformarlo in alcuni momenti oppure no? Allora, per ora non ce n'è stata la possibilità, ma perché abbiamo comunque lavorato, ovvio è appena uscito, quindi di date con la band ne abbiamo fatte forse un paio. Esattamente, però nel proseguo del discorso. Però nel proseguo sicuramente, perché comunque il live è tutta un'altra cosa, dipende anche come agganci un pezzo all'altro, come è quello il bello del live, che non devi... fare esattamente. Però cioè, ci sono delle tipologie, cioè delle idee invece che dicono questo, cioè fare il live molto simile al disco. Sì, questo. C'è anche questo pensiero, questa corrente di pensiero. Questo è verissimo. Ti dico la verità proprio nuda e cruda. Sì. Non sarà quasi sicuramente così, ma per il fatto che, certo, che sì. La band comunque è in fase di assestamento, e per il fatto che comunque sono state registrate parecchie chitarre, anche qua ne parlavamo in macchina con Alessia. Non ci guardavamo perché sennò a quest'ora però nel senso riflettavamo sul fatto che ci sono molte chitarre e rendere un brano a tre chitarre magari è una cosa diversa. Diciamo certo. Che noi ci metteremo del nostro a livello di pathos, ecco, sì, ho comunque. Capito, volevo proprio arrivare a questo, io volevo sapere questo qua. Perché sì. È fondamentale in un live. Non dico trasformare completamente, perché può anche non piacere la trasformazione completa del pezzo, però dargli qualcosina di diverso, quello sì. Sì, beh, quello sicuramente. Poi io penso che tutti i live siano diversi, certo, anche certo. A seconda dell'energia che c'è, una serie. Un'energia rock al 100% in ogni caso. È anche un po' punk, secondo me. Decisamente sì, questo punk. L'hai anche scritto. L'ho scritto perché... visto. Ma può anche darsi. Ma non è mica una fase domani negativa. Trovo col Cristino. Non è fase, il punk non è una fase negativa. No, beh, assolutamente. C'è qualche momento di tensione emotiva è giusto, dopo chiaramente ritorni sul letto normale, sul tuo trend, ma è un trend positivo sempre in ogni caso. Il punk qualche volta io l'ho sentito così e l'ho scritto tutto. No, hai fatto benissimo. No, cioè mi è piaciuta questa cosa. A me piace sentirti però, sì. Ah, ok, comando. Sì, comando. Leviamo via il capotasto. Esattamente. Sì. Cosa ci proponi? Non guardare me. Ok, non guardo nessuno. Vi propongo E di passi neanche l'ombra. Mi piace. Ok. Va bene. Mi piace come. Sì, okay. Sì. Benissimo. Per fortuna. Ti sto aspettando e apparentemente dormo, ma attendo solo che tu venga a scoprire che sono sveglia, la stanza è calda e di passi neanche l'ombra. La mia impressione è che non c'è più voglia di me per te. Mai in funzione di me. dal sonno. Quando arriverai, il mio cuore batterà nervoso, talmente forte che mi impedirà di ascoltare le tue ragioni. Perché ho già compreso che non pensi mai in funzione di me. Mi sto stancando di te. Mi rendo conto che non c'è apertura nei miei confronti e non mi resta che sì, è finita perché si abbandona al sonno, no? Quindi, no, seriamente, quello che mi è fatto apposta. Sì. Sai, presente le... È un bel un pezzo con inventiva, non da poco. È un... sarcastico un momento, non dico violento musicalmente, violento no, però ha delle parole dure, secondo me, dure che lasciano il segno, questo sì, posso dirlo. Beh, bene, sono contenta, ma a me l'hanno lasciato. Io sono di parte su questo brano, è uno dei miei preferiti. Visto, è brutto, sai, stilare una lista dei brani preferiti in un disco, però... Ma sì, perché la gente non lo sa, ma lei fa i gesti della batteria, delle cose, mentre io suono, no? Fa gli stacchi, certo, sì, faccio i miei filmini in testa. Sta ripassando, tipo. Confermo quello che dici, Barbara, perché l'ho osservato adesso Alessia, che si muoveva, sì, faceva il ritmo con l'altro. È resuscitata. Questo è un brano che mentre si suona riesce a darti due sensazioni completamente opposte nell'arco di un minuto dall'altro, cioè narra la storia, un'atmosfera molto calda, speranzosa. E quindi abbiamo cercato di ricreare appunto questa fase quasi sognante un pochino con questi arpeggini, però poi sferzata, con un sorriso e con una semplicità disarmante dici sì, però mi hai stancato, cioè basta, esatto, così non va più bene. E quindi è bellissimo perché ti dà un sacco di emozioni pazzesche. Questa è la voce di Alessia Ippoliti. Sì, quella... voce raffreddata e... Per quello che ho detto prima, è resuscitata, perché sì, era lì. Però ti sei scelta una chitarrista con i fiocchi, Barbara. Sì, ho avuto fortuna, insomma, diciamo che... Lei è bravissima, io mi sono documentato un po'... Troppo gentile, poi mi dici quanto ti devo. No, Beh, dalle sempre... a me se proprio non sai dove buttarli. Io sono sempre sincero quello che dico. Grazie. Nel senso che ti ho osservata e poi ho scoperto... Lo diciamo, Barbara, lo possiamo dire. Sì. Ah, dillo pure. Sì. Come diciamo noi, sì. Lei è la chitarrista da 2 anni a questa parte di Massimo Ranieri. Ebbene sì. Quindi vuol dire che insomma qualcosa ne sa di corde, o sbaglio? Certo, certo. Beh, assolutamente. Noi ci siamo conosciute un po' prima. La fortuna è stata, forse è stata quella la fortuna, che non lavorava ancora con Ranieri, se no non sarei riuscita mai a avvicinarla, che ne so, boh. Sono due realtà talmente opposte. Ah, per forza, io rose rosse entrambe, no. Però ecco, non... E poi c'ho una curiosità, me la consenti, vero? Come avete fatto a creare un gruppo femminile dei Led Zeppelin? È stata un'opera mastodontica, no, creata dalla nostra cantante italo-americana. Lei viveva negli States e ha deciso di formare questa band, ma non riusciva a trovare delle componenti là ha deciso di tornare comunque in Italia per altre cose, naturalmente, non esclusivamente per la band, e ci ha contattate. Sono curioso di sentire Stairway to Heaven. Come, come dicevo prima, non ho una doppia manico, quindi purtroppo è stata riarrangiata esclusivamente in chiave elettrica, cercando di dargli la, la dolcezza e il sentimento che merita. Però. Certo. Ritornando a questo pezzo, ero deciso, indeciso, Barbara, se mettere su questo pezzo per un mese o il singolo. Io ho scelto poi il singolo, perché questo pezzo mi ha molto attirato, ed mi ha attirato specialmente perché c'è un sacco di stop and go, come faceva l'Alessia, come se avesse con la testa in... con le... esatto, come avesse posseduta la batteria in mano. C'è proprio gli stop and go continui, e quello dà ritmo, dà l'incedere, può fermarsi e riprendere, una cosa molto interessante secondo me. E poi questa, questa pseudo apertura, pseudo acustica, e poi l'acustico via via via si allarga, ma non totalmente, trova sempre una dimensione melanconica secondo me. Sì, abbiamo tentato comunque di dare, insomma, quando dico mi sto stancando, cioè non è che possiamo metterci sotto. Sì, però prima sei in una chiave dolce, poi ti stai stancando e dai sì, la, basta, la, il cioè, colpo sì. finale. Chiaro. Esatto, invece all'inizio, insomma, sì, all'inizio c'è esattamente atmosfera. Ah sì, ti aspetto qua, sto per dormire, però non... Però no, no. Allora adesso sei punk. Te non questa... entri più. E in questo momento sei punk così. Sì. Eh sì. Bene, no, sono contenta. Diciamo che non sei timida. No, no, no, ma io l'avevo detto, io avevo avvertito. Prima di venire io l'avevo detto che ero logorroica. Perché tu fai quello che vuoi, cosa ti abbiamo detto noi? Sì, sì, non ce lo dire due volte. No, no, assolutamente non sei per niente logorroica. Anzi, sei simpaticissima, Barbara. E sono contento di averti invitato. E mi fa molto piacere di essere, che tu hai, cioè, aderito a questo, in questo invito, insomma. Quindi, anche a me fa piacere insomma, se non di aver aderito. Se non saresti venuta, cosa ne pensi dei talent show tipo X Factor? Tu arrivi sempre cosa ne, cioè, con delle io domande. Io cerco di scoprire l'artista nella sua parte intima. Cosa ne penso dei talent show? Allora, lo faresti, non lo faresti? Allora, non... è una bella domanda, ti spiego. Allora, adesso come adesso, per avere della visibilità, a parte online, stai lì a fare un talent show, esci da lì e comunque c'è gente che va a comprare il tuo disco, ma solo perché gli stai simpatico addirittura. Poi ci sono anche dei talenti lì dentro. Il discorso è che io non so se potrei mai reggere il fatto di fare per due o tre mesi delle cover. Cioè a me non mi frega niente di fare le cover. Certo. Cioè il mio obiettivo, se poi quello deve essere un tramite del tipo guarda, vuoi fare quello nella vita, bene, soffri due mesi. Ecco, però se mi mettessero a fare tu mi fai girare come fosse una bambola, io non... Per tante volte. No, non per la canzone, no, no, però per bella. Dire sì, ho capito. La diversità. Non ne penso del tutto male, perché è anche un cliché pensarne male, no? Tra la musica indipendente così. Però alla fine hanno degli ascolti pazzeschi. E allora, o nella musica indipendente siamo in 20, oppure la gente li guarda come Sanremo, sì. Okay? Sì. A proposito di X Factor o similari talent show, X Factor in inglese è stato vinto da un ragazzo, da un ragazzo che cantava una canzone di Tracy Chapman. Ricordate Tracy Chapman? Sì. Di solito in Italia, quando vince un artista, bellissime, vince un artista, il disco dell'artista va in classifica. In Inghilterra è successo totalmente l'opposto. Il disco dell'artista che ha cantato Tracy Chapman non è andato in classifica, è ritornato in classifica Tracy Chapman. Fantastico. Ma questo è una goduria. Una cosa incredibile. Questa notizia. Una cosa incredibile. Tracy Chapman, il disco dell'epoca, è ritornato in classifica in Inghilterra. Beh, molto. Questo è sinonimo di cultura musicale che probabilmente. Secondo me sì. Non per dare addosso. Mi dispiace all'Italia. Per quel ragazzo inglese, però è un'altra cosa. Cos'è che fai tu di Tracy Chapman, Barbara? Facevo poi puoi farlo anche adesso un secondo. Tutta? Un secondo qualcosa. Un ritornello dai. Sì, sempre col mio capotasto, mi pare giusto. Sì, così lo alziamo un po'. Scusate. No, non si fa il radio. Faccio quella che vuoi tu. Don't you know they're talking about the revolution. It sounds like a whisper. Don't you know they're talking about the revolution. It sounds like a whisper. Oh, people gonna raise up and get washed. Poi il mio inglese. Sì, insomma, faccio queste cose qua. Facevo. Ma anche quelle un po' più. Mi piaceva anche questa. No words to say, no words to combine this feeling inside. I have for you. Questa è un po' più di atmosfera. Vero. Tracy, brava. Fantastica anche Barbara in questa versione, non ti conoscevo. Ma perché uno si deve un attimo inventare, perché nei locali purtroppo se fai musica tua difficilmente ti fanno suonare, perlomeno non tutta la serata come in questa grandissima trasmissione. Questo è un classico di tutti i locali. Quindi sai, almeno far delle cover che ti piacciono, ecco. Certo. E non sempre le stesse che ti chiedono. No, beh, no. Tu che sei di quelle parti, insomma, sappiamo chi. Sì. Esatto. Vabbè. Adesso ci fai una cover di Barbara Gobbi? Esatto. Una cover di Barbara Gobbi. Sì. Cosa vi faccio? Scusa la mia domanda, ma preferiresti un pezzo di quelli pesi come ultimo brano? No, abbiamo ancora 10 minuti. Abbiamo 10 minuti. Sì, esattamente. Ok. Perfetto. Allora si scatena adesso? No. No, facciamo un brano. Sta attaccando le borchiette al polso, però non so. No. No, facciamo Intrigante, che è un brano che ho scritto tanti anni fa e l'abbiamo messo nel disco. Benissimo. Ok. Sguardo intrigante, capelli bagnati, profumi di marca allineati su un mobile, un gesto d'affetto rubato in cucina diventa il pensiero del mio pomeriggio. Lanciavi messaggi, colmavi giornate con domande semplici ma alquanto impertinenti. Mentali Pezzo sostenuto, anche se nel disco non è così sostenuto, leggermente meno, ma insomma. Sì. Qua l'hai fatto decisamente con molta grinta. Ma sarà che il testo mi prende esattamente in questo periodo. Boh, adesso, in 10 secondi o in 15 secondi, spieghi Donna Manager, che è il pezzo che sentiamo dal disco adesso. E poi ci salutiamo con un'altra canzone. Esattamente. Perfetto. Donna Manager è una donna attuale, come ho scritto sul sito, e che conosco solo di vista, quindi è una persona che mi ha dato uno spunto. È, in Donna Manager parlo praticamente di una donna che è combattuta tra la voglia di fare carriera in questo mondo moderno e l'avere il tempo per sé. Queste okay. donne che diventano uomini. Perfetto. L'ascoltiamo. Elegante dal linguaggio ricercato, prigioni fascino ad ogni passo fatto, la tua collezione di cravatte ti dà un senso di potere, tieni le redini dell'azienda, mi chiedo se conservi ancora il tuo piercing, mi chiedo se la tua cicatrice al sopracciglio si rimarginerà mai. Raccontami stima e chi non cela il suo disprezzo, sei abile a mantenere distanze che ritagli al punto giusto, tieni le redini dell'azienda, mi chiedo se Radio Sera. Blu Radio Sera. 22:27, siamo arrivati purtroppo alla fine. Mi dispiace sinceramente per la simpatia che c'ha questa ragazza, che è una cosa fantastica, vero Maurizio? Decisamente. Ci ha regalato una serata simpaticissima. Grazie, non pensassero tutti così. È vero, io sono sincero, giuro, sai, dico sempre quello che penso, Barbara. E ti aspettiamo un'altra volta comunque. Certo, beh, insomma, ci si tiene in contatto. Certo. Barbara, un po' di informazioni di servizio, disco, tournée, se hai, date, eccetera. Informazioni di servizio, ricordo il sito principale www.barbaragobbi.it. Ci sarà una data il 23 giugno al Cortile dei Castelli Estensi, che è a San Felice sul Panaro, che è in provincia di Modena, però chi vuole venire può venire, che sarà una sorta di presentazione del disco con la band. Suoneremo tutto il disco e ci sarà anche la possibilità di ovviamente averne delle copie. E un 21 giugno alla Festa della Musica di Modena, non è ancora sinceramente confermata, però io ce la metto comunque, il 21 giugno, mi hanno chiamato oggi pomeriggio. Bene. Per il resto, niente, ringraziamo ancora tutti quanti. Grazie davvero. La Z Factory che ha prodotto il disco, Gabriele Rustichelli che sta per diventare papà. Per la seconda volta. Per la seconda volta, secondo me ci siamo. E grazie ancora a tutti voi. Grazie a te invece di aver aderito a questo invito. Ti facciamo un grande in bocca al lupo a nome di tutta Blu Radio Veneto per l'uscita domani del tuo Crepi. Assolutamente, domani 27 maggio è disponibile. Più che altro cercate, perché di questi tempi ciò che non posso avere noi consegniamo a casa. Ecco, esatto. grazie ad Alessia che ci ha onorato della sua grazie presenza. Grazie a voi. Ti aspettiamo qui con un tuo disco, con un tuo lavoro, con... speriamo a breve. Sai che te l'avevo già detto. E noi ci salutiamo Barbara che ci lascia con un'ultima canzone. Cosa ci fai ascoltare? Vi faccio ascoltare una canzone che si chiama Abbandono. Abbandono. Che è proprio ideale. Esatto, me ne vado. Ciao Barbara, grazie di ciao, tutto. Grazie ciao, a grazie voi. Di tutto. Ciao. Abbandono striscia ancora verso di me e fatti indirizzare da chi vuoi. Colpiscimi alle caviglie mentre elenchi i tuoi motivi. Tanto io mi privo dell'udito di fronte all'evidenza. Abbandono è molto arduo, piegarsi a tutte le tue condizioni. Io non cambio se quello che c'è stato è peggio del presente. E non violarmi con le frasi di chi ti ha portato qui stavolta. Silenzio sia una forma di sconfitta. Abbandono ormai compagno, ti presenti a cadenza regolare e mi imponi nuove sfide. Temo più di perdere ogni volta che strappi la mia pelle, mi rendi un po' più forte. E non violarmi con le frasi di chi ti ha portato qui stavolta. E non pensare che il mio silenzio sia una forma di sconfitta. Vai e vieni quando vuoi, vai e vieni quando vuoi. Abbandono striscia ancora verso di me e fatti indirizzare da chi vuoi. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.